Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto e un caro saluto anche da parte di Gloria Guerrera, la nostra redattrice, Valerio Rocchetti, il nostro regista. Beh, quest'anno siamo fortunati in questa terza edizione. Stiamo avendo così come guida delle persone che noi pensiamo ci onorino con la loro presenza. Questa settimana mettiamo così in circolo su questa rete, su questo programma, lo avremo come guida anche se provvisoria, un italiano che da anni ci sta insegnando che la realtà è sempre una medaglia a due facce e che spesso la faccia verso la quale noi distogliamo gli occhi oppure non vogliamo sentire, a volte non vedere, può essere descritta senza pizzi, senza merlette, senza fronzoli. Oliviero Bea, benvenuto. Grazie. Di Oliviero Bea vi segnaliamo il suo ultimo libro, Il paziente italiano, da Berlusconi al berlusconismo passando per noi. E Avagliano editore è proprio di quest'anno 2008, però vi ricordiamo anche Italiopoli e vi ricordiamo anche Crescete, prostituitevi, un titolo piuttosto impegnativo. Sì, a metà fra il parodistico, l'esortativo, ma quello che è successo poi, il libro del 2005, quello che è successo poi negli ultimi mesi ha dimostrato che forse mi avevano frainteso perché hanno pensato bene di regolarsi su questo titolo. E invece nel paziente italiano, da Berlusconi al berlusconismo passando per noi, cosa c'è dentro quel noi? C'è il fatto che una società come la nostra non può precipitare come sta facendo sotto i nostri occhi senza un concorso di colpa di praticamente di tutti o di quasi tutti. Forse le minoranze non si fanno sentire abbastanza e c'entrano meno, ma diciamo ci sono maggioranze silenziose, italiani che si sono dimenticati di essere italiani, identità frantumate, carenza di valori, un'intelligenza degli italiani famosa, poi una specie di intelligenza da esportazione che vale solo per alcuni ma per pochissime, invece nella vita di tutti i giorni in questo paese è dimenticata, insomma, come dire, non ci si annoia. A volte capitano fatti curiosi, perché come durante il recente viaggio del Papa a Sydney, chi ci riceveva come giornalisti teneva molto, pensando di farci piacere, nel segnalarci che tutto lo skyline di Sydney nell'Harbour, Darling Harbour, il vecchio porto, era stato ridisegnato da imprese italiane, tutto era fatto da imprese italiane, qualcuno a un certo punto disse ma perché non ce le ridate per un quarto d'ora? Lo so, è questo il punto. Bene, siamo entrati nel centro del nostro programma con adesso la parola a Oliviero Bea che ci indicherà da dove stiamo partendo. Allora, possiamo partire davvero da quel Crescete prostituitevi, che è un titolo così forte, che ha appunto del 2005, ha questo e commerciale che rimanda al denaro fra crescete e prostituitevi. E in quel libro si sostengono varie cose, si parla di valori, di morale, di etica e di denaro, cioè quello che ha sostituito quasi tutto, se non tutto. Di questi tempi devo dire che il denaro, come del resto il Papa ha appena detto, corre qualche problemuccio, forse chissà che non ci sia un'occasione per guardarsi allo specchio, denaro compreso. E in questo libro io cito come frase, secondo me molto molto importante, una frase che Franco Fortini, il cosiddetto Sartre italiano degli anni 60-70, insomma quasi il Sartre italiano, ecco, il quasi Sartre italiano, poeta, saggista, intellettuale di vaglia, racconta di aver trovato da qualche parte, non avendo ricostruito, non avendo avuto modo di ricostruire, l'esatta estrazione filologica di questa frase, che sembra un paradosso e naturalmente non lo è, una cosa profondissima. Non si crede mai quel che si crede. È un rimando agostiniano, da Sant'Agostino, ma per rimanere proprio in questo linguaggio, non si crede mai quel che si crede. In realtà significa mettere anche solo un centimetro fra noi stessi e la realtà, fra noi stessi e l'idea che abbiamo di noi stessi, fra quello che pensiamo e crediamo di vedere e quello che pensiamo e quello che in realtà vediamo. Insomma, è un modo di tenere esercitato il muscolo del cervello, forse anche del cuore, come in palestra. Uno lo deve allenare, deve essere pronto alle circostanze, deve essere pronto a non credere mai quello che crede. Naturalmente quello che diciamo così è tra parentesi, che non c'è, ma è implicito, è non si crede mai quel che si crede fino in fondo. Ecco. Tanto per restare sull'esempio che hai appena dato, perché il sottotitolo, diciamo, del libro Crescete e prostituitevi recitava: in una repubblica fondata sul denaro, l'Italia di Berlusconi e di una sinistra in riparazione manda ai giovani un pessimo messaggio. Ma non solo ai giovani, perché qualcuno notava che era circa una decina d'anni che sapevamo che i soldi di cui si parlava, questo splendido orizzonte di crescita, decrescita, erano soldi basati sul debito, erano debiti che passavano di mano in mano. Poi alla fine ci ritroviamo nell'autunno del 2008 a dire tutti, l'avevamo visto, ma volevamo non crederci. Alcuni anni fa uno degli intellettuali veri, dei pochissimi intellettuali veri comparsi sulla scena del teatro italiano, diciamo così, sulla scena pubblica italiana, dopo Pasolini e Sciascia, cioè Paolo Sillo Slabini, un economista che definire un economista è poco, perché era davvero un intellettuale a tutto tondo, morto nel 2005, e che mi accusava per Crescete prostituitevi, perché aveva fatto in tempo a leggerlo, di un unico peccato, quello di essere troppo ottimista, quindi voglio dire, ma insomma, ecco. Ebbene, lui già da tempo, già all'inizio degli anni 2000, diceva forse il cambiamento lo darà tutto quello che cova in America con i mutui subprime, con la bolla speculativa sul mattone, cioè, verrà tutto da noi, arriverà tutto prima o poi, e speriamo che la gente capisca. Questo per dire, appunto, per confermare che non si crede mai quel che si crede, va applicato un po' a tutto in questo senso. Uno, il beneficio di guardarsi allo specchio davvero, non soltanto per vedere se è pettinato, ecco, questo è una cosa che credo ormai manchi. Non so se dire a questo paese o a questo pianeta, ma insomma comincia sempre per P, quindi. Crescete prostituiti vede 2005, mentre il paziente italiano, da Berlusconi a berlusconismo passando per noi, nel 2008. 3 anni di osservazione su questa parte della medaglia che non vogliamo vedere, cosa ha aggiunto? Sì, 3 anni di osservazione con in mezzo Italiopoli, che è un manuale di sopravvivenza, come resistere nella palude di Italiopoli, per cui tutte le tracce, tutti, diciamo così, i segnali che ci dicevano che eravamo immersi in una palude, già ce l'avevamo abbondantemente, il libro del 2007. Questo ultimo, il paziente italiano, in realtà ricostruisce quasi diaristicamente dall'inizio del 2006 alle ultime elezioni politiche, comprese le ultime elezioni politiche, per dare l'idea che insomma la deriva di questo paese è appunto una questione certamente di stampo berlusconiano, certamente che ha come maggior attore protagonista Silvio Berlusconi, ma in realtà ha come comprimari, comparse che giocano un ruolo pesantissimo tutti gli altri. Per ridurre in questo stato di prostrazione questo paese non bastava di sicuro Berlusconi, questa è la teoria di fondo, bisogna essere molto molto più bravi di Berlusconi da solo per trasformare questo paese, soprattutto lo stile di vita di questo paese, che ormai è uno stile di vita senza stile, perché insomma non ci voleva, ecco, ben di più che Berlusconi. Io sostengo la tesi dei ladri di Pisa, di beneamata memoria, che insomma non sono uguali destra e sinistra, sono peggio, sono complementari. Sì, ma infatti, diciamo sì, è un po' difficile anche, soprattutto quando si hanno gli amici stranieri, spiegare cosa significa incontrare ogni giorno una sinistra che pensa che questo mondo, cioè il mondo comunque descritto da chi crede nel mercato, sia il migliore dei mondi possibili. Sì, soprattutto perché non premette al termine mercato, non postmette, non aggiunge al termine mercato l'aggettivo che lo identifica, cioè mercato truccato. Non è vero che è un mercato, il mercato vive di certe regole. Quello che succede adesso, che è sempre successo ma in questo momento è di grandissima evidenza addirittura planetaria, ci dice che è un mercato truccato. In Italia è davvero un mercato truccatissimo, anche se le banche sono più sane. Sì, le banche saranno pure più sane, ma voglio sapere se è più sana la popolazione italiana. Bene, Oliviero Gubei è la nostra guida questa settimana. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. E questa settimana di Oliviero Bea, il decriptatore di questa, diciamo così, nostra provvisoria analisi su noi e su quello che ci circonda. Abbiamo parlato dei suoi tre passi analitici in questi ultimi anni, a 2005, anno di Crescete e prostituitevi, Italiopoli dell'anno successivo e Il paziente italiano, che trovate in libreria da quest'anno. Beh, Oliviero, se dovessimo così scrivere a un ipotetico amico americano una cara una lettera in cui diciamo: caro amico, ti scrivo, ti dico le cose belle che trovo in quest'Italia 2008, da dove dovremmo partire? Beh, c'è da cercare abbastanza, bisogna dire la verità, ahimè, però continua a essere un paese per frammenti, per spaccati, per affreschi straordinario, straordinario come ambienti, straordinario come ricchezza delle persone, quelle ancora non deteriorate da certi meccanismi. Diciamo che un'Italia praticabile, esteticamente ed eticamente praticabile, la si trova soprattutto lontano dalle grandi città. Questo è probabilmente un fenomeno più generale, però insomma, per rimanere all'Italia, di sicuro ancora girando per l'Italia si trovi delle persone che non hanno paura di essere delle persone. E invece purtroppo soprattutto la classe dirigente, ma non solo la classe dirigente, anche coloro che premono alle porte del residence, io ne parlo in Italiopoli, di questo residence che è la figurazione del potere, di dove sta il potere, una sorta di palazzo pasoliniano degli anni 70 aggiornato ad oggi, e quelli che vivono lì dentro, e spesso anche la categoria dei giornalisti alla quale apparteniamo, non, da questo punto di vista non delude quasi mai, sono organismi geneticamente modificati, stanno perdendo gradualmente o velocissimamente, secondo il tipo di analisi, stanno perdendo la loro umanità. E allora da un lato abbiamo degli organismi geneticamente modificati inseriti in questo contesto del potere, e dall'altro fuori a chiazze delle persone che non hanno perso la memoria, la nostalgia dell'umanità. Avevamo concluso la prima parte della nostra così chiacchierata alludendo appunto alla sanità del paese e di chi lo abita, e Il paziente italiano come titolo sembra suggerire molti stimoli in questo campo. Dunque, intanto fa il verso al paziente inglese, che è un grande romanzo ed è stato un film da Oscar, magari anche esorcizzando questa analogia, perché il paziente inglese muore, quindi si spera che il paziente italiano, cioè il paese Italia e noi stessi, non si faccia la stessa fine. Poi c'è il discorso sul paziente. Paziente, in realtà il paziente è termine che andava di moda una volta, adesso è cliente o utente dell'azienda ospedaliera, il che forse già dà l'idea del passaggio epocale che abbiamo subito. Dove ci stiamo dirigendo. Ecco, appunto, non a caso. E quindi in realtà se quel tipo di cosa, quel tipo di significato va più riferito appunto a cliente, a utente, però per il nostro immaginario, la nostra sensibilità più antica è paziente il termine che immediatamente identifica la situazione. Ebbene, quindi un paziente italiano in quanto un paese malato, quindi rimanda alla malattia di un paese. Ma non è solo questo, l'italiano è paziente anche nel senso giobbesco del termine, e io sostengo che sia troppo paziente. Il confine fra la pazienza e la pecoronaggine, la passività, è davvero ormai sottile, è stato valicato tantissime volte. Questo è un paese troppo passivo, un paese che non dà segnali di vitalità e non distingue più, con una facoltà critica ridotta sotto i tacchi, quindi è paziente nel senso peggiore del termine. Una volta poteva avere la pazienza un significato, e lo ha in assoluto, devo dire, con un piccolo riferimento così buffamente autobiografico. Io ho tanti difetti, ma se dovessi identificare il primo dei miei difetti è sicuramente una sorta di impazienza. Quindi so bene che cosa vuol dire la pazienza. In questo caso la pazienza però gioca un ruolo negativissimo, perché ha svuotato di tensione il paese. E poi ci sono altre cosettine, per esempio le ruberie, il costo della politica in questo paese. In realtà, dove prende i fondi? Beh, facciamo 2 più 2, così, tanto per non saper né leggere né scrivere. E la maggior parte dei bilanci pubblici se lo prendono, soprattutto dalle regioni, ma dagli enti competenti, se lo prende la sanità, fra l'80 e l'85%. E allora la politica da dove pensa di prendere i denari per quelle partite di giro famose per cui io ti do un incarico, dei soldi, tu me ne ridai una parte? Ecco, da dove la politica pensa di finanziarsi o autofinanziarsi se non da dove ci sono più soldi? E qual è appunto il settore che ovviamente impiega più denari nel pubblico? È sicuramente la sanità. Quindi da questo punto di vista c'è un accenno, nel libro poi ne parlo diffusamente, a questa partita di giro che sulla pelle della salute degli italiani e del funzionamento della sanità fa cose turpi. L'ultima cosa straordinaria che è successa è chiudere un ospedale a Roma, l'unico ospedale del centro, di cui si poteva discutere naturalmente la funzionalità, l'efficienza e via dicendo. In realtà è stato chiuso, immolato sulla base, dopo averci speso bei soldi pubblici per ampliarlo, per fare nuove sale operatorie e via dicendo, è stato immolato sull'altare di un affare per un costruttore, un famoso costruttore romano al centro di questo paese. Della città. Ora, tutte queste cose qui poi alla fine si pagano. Ma forse bisogna anche ricordare che il San Giacomo, perché di questo si parla, certo, era uno dei pochi ospedali romani, l'unico del centro di Roma, che aveva anche una struttura per accogliere gli affetti da malattie mentali. Sì. Qui era realmente l'unica isola di salvezza per quelle tante famiglie che a Roma affrontano il disagio di un familiare. Certo. Io, diciamo così, lo dico perché vivevo in comunità con persone con questi problemi ed era anche l'unica isola di salvezza per quei tanti disgraziati che vediamo in giro per Roma, magari mentre delirano, che nessuno può soccorrere perché. Ma io volo ancora più leggero. Cioè, in fondo hanno bombardato i poveri, sì, nonostante la chiacchiera che fosse al come centro sempre, di Roma. Come sempre o quasi. Hanno offeso i poveri, non i ricchi. Ecco, ma invece rifacendoci, se non ai ricchi, comunque a quel genere interessante per Roma che è la categoria dei turisti. Scusate, uno adesso, con tutto rispetto, va a visitare Tor Bella Monaca o Piazza del Popolo, e il San Giacomo è vicino a Piazza del Popolo, per dirne una. Quindi anche sul piano del servizio stretto al turismo c'è una mancanza clamorosa. La verità è che è un segnale formidabile di quello che si intende, o meglio si malintende, come salute in questo paese, come organizzazione della salute pubblica in questo paese, come affari sulla salute in questo paese, segnatamente quella privata, e tutta questa la serie di contraddizioni che stanno avvilendo l'Italia e di cui stiamo parlando qui. Sì, e poi magari anche il sospetto che sia stata una specie di ricompensa per affari persi col pincio, così tutti sono contenti e soddisfatti. Ma questo rimanda al discorso sul paziente italiano e sul denaro, su quelle partite di giro fra la politica, i privati, la sanità privata. Quando per esempio succede nella regione Abruzzo quello che è successo, di cui aspettiamo penalmente gli sviluppi, e giudiziariamente gli sviluppi, se ci saranno, come pare, ma comunque li aspettiamo, e non si deve pensare che sia un problema dell'Abruzzo. Qui c'è tutto un intero paese che con i soldi della sanità ha fatto appunto dei giochetti politici e subpolitici che gridano vendetta. Prima o poi alcuni nodi, non tutti, verranno al pettine o stanno venendo al pettine, e noi ci ritroveremo a dire le stesse cose come per ma lo sapevamo, quello l'aveva scritto un po' d'anni fa, quell'altro l'aveva detto alla radio. Ecco, questo rende passivo questo paese. Ma tu che li hai analizzati dentro questo aspetto così specifico del nostro vivere nazionale, qualche luce l'hai incontrata? C'è da qualche parte qualcuno che inizia o tenta a iniziare di muoversi? Io, per esempio, io in Italiopoli, in un capitolo intitolato Le nuove resistenze, vado in cerca delle associazioni culturali, le associazioni laiche o religiose, le organizzazioni non governative, segnali anche, se vogliamo, contraddittori e per qualcuno disturbanti, come Beppe Grillo che scende in piazza con le sue giornate, diciamo, eclatanti, e che poi vengono spente dopo la prima volta i media tradizionali o media tradizionali che dir si voglia, e hanno capito che l'unico vero danno che potevano fare le iniziative era non parlarne, non criticarle, magari criticarne. E hanno girato la testa, come purtroppo succede troppo spesso. E appunto da questo punto di vista ci sono, e anche via internet c'è la possibilità di conoscerle, queste delle realtà resistenziali, e bisogna andarsi a cercare. Bene, questa era la nostra riflessione di questa settimana, una riflessione dove oltre a pensare abbiamo anche tentato di dire cosa si può fare. Grazie a Gloria Guerrera, grazie a Valerio Rocchetti e soprattutto grazie a Olivero Bea. Grazie a voi. A risentirci. Questa era la prima parte del nostro programma, la seconda parte tra qualche istante, restate in ascolto.